ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Due di denari, dammi la via. Dollaro ciao, euro ciao, franco svizzero ciao con la Rosciani e col Meazza. Sono un bravo investitore. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Siamo là, ladri di biciclette, siamo là, là, là, e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì, sì, sì, ma per suonare. Allora, sento odor di data breach. Il 4 novembre, io te lo dico già. Allora, il 4 novembre, che peraltro sarebbe anche un anniversario Fausto, una volta si festeggiava la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, il 4 novembre. Ah, guarda, sì, ma che, ecco, che riguarda... riemerge il tuo spirito sempre storico-letterario, sì, oltre che musicale. Diciamo che riguarda le persone diversamente giovani come me, che forse l'hanno approfondito. Adesso non esageriamo, non hai fatto la Prima Guerra Mondiale, magari la Seconda. No, quello no. Allora, perché questa amarezza iniziale, cara Debora? Buongiorno, bentornata a Due di Denari. Buongiorno, bentrovati a te, a Gianmarco Ferronato, a Marco Lombardo, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Purtroppo il nostro cuore non è lieto, perché abbiamo appreso dalla prima pagina del Messaggero di oggi che il bonus bici, il bonus per la mobilità dolce, quello per favorire gli acquisti dal 4 di maggio e fino alla fine dell'anno, ecco, ohimè, forse i soldi non bastano. E quindi? Si potrà chiedere dal 4 novembre. E quindi? Però diventerebbe un click day, chi ce la fa, ce la fa, dai. E gli altri aspettano. Perché? Grande incubo di tutti. No, il governo ha detto il click day. Daremo fondi per tutti gli acquisti, però forse non ce li abbiamo subito. Perché abbiamo già dato fondo a questi soldi dirottandoli altrove. Allora, vedremo. Per adesso, dottamente e doviziosamente, il Messaggero riferisce che la dote di 250 milioni basta a coprire soltanto la metà degli acquisti che sono stati fatti finora. Con che criterio saranno appunto erogati? Il tardi arriva, ma là magari uno ha comprato la bici l'altro giorno e guarda, approfittando del click day del 4 novembre, si collega per primo e prende per primo i soldi rispetto a quello che invece ha fatto l'acquisto all'inizio di 4 di maggio. Vedremo. Il governo ha subito detto no, vabbè, ma poi sistemiamo, perché troveremo altri fondi e quindi stanzieremo altri fondi e tutti gli acquisti saranno incentivati. Però al momento stiamo così. Se avremo ulteriori notizie che eviteranno, direi, siamo passati dal surplus, prima non si sapeva quando arrivava sto portale, poi si è finalmente saputo, qui siamo invece allo sprint, alla volata. Esatto, allora tra l'altro chissà come si staranno innervosendo tutte quelle persone che volendo approfittare di questi incentivi hanno costituito la loro identità digitale, si sono fatti la SPID. O lo speed, anzi, perché generalmente lo decliniamo al maschile, se non mi ricordo male. È vero, è così. Ecco, tema del quale parleremo a brevissimo, perché ci sono delle novità e magari volevano l'incentivo se avessero pagato in contanti, magari il rivenditore faceva uno scontone lì al volo e non se ne parlava più. Ma bisogna vedere quanto costava la bicicletta. Ecco, perché torniamo sul tema, oggi lo facciamo, ve l'avevamo promesso, facciamo. Anche perché effettivamente sono dei mezzi che non sono proprio trascurabili in termini di prezzo. Se prendi una bici a pedalata assistita, anche questa per i diversamente giovani come me. Tu non me la racconti giusta, perché sei informatissimo sull'incentivo, sulla modalità di farne richiesta, sulle date. Hai già detto che sei nervoso per il fatto che forse c'è il click day. Adesso mi sai dire tutto sulla bici a pedalata assistita. Ma non è che tu l'hai comprata e non me l'hai detto? No, ho deciso che faccio l'abbonamento per il tram. Guarda, mi sembra più pratico. Vedo che anche Gianmarco d'altra parte ne conviene. Allora, noi per oggi parliamo degli tanti, perché la settimana scorsa hanno scatenato molte vostre curiosità, richieste di precisazioni, anche qualche arrabbiatura. Allora, si può, non si può pagare in contanti? Entro quale soglia? Posso andare in banca a prelevare il mio conto corrente? Novità sull'argomento non ce ne sono, ma vi scatena sempre, in ogni modo, non appena si pronuncia la parola, parola contante o libertà di utilizzo del nostro denaro, ecco che subito vi infiammate e si rende necessario organizzare al volo una trasmissione. E noi siamo qui apposta. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Se volete farci domande, sollecitazioni, segnalazioni, 349 238 6666, così potete usare SMS o anche messaggi con WhatsApp. Però, essendo lunedì, cara Debora, io darei innanzitutto spazio a Meteo Borsa. Ma molto volentieri. Meteo Borsa. Ringraziamo per essere con noi Laura Tardino, responsabile della clientela istituzionale di Aberdeen Standard Investments. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, intanto ecco la consueta Polaroid di inizio giornata, anzi per la verità ormai siamo in negoziazione da un paio di ore. Comunque la settimana, caro Mauro, è molto promettente perché gli indici sono tutti in rialzo di oltre un punto. Abbiamo avuto una settimana piuttosto precaria, piuttosto debole, e per la verità ci stava anche perché, visto che continuiamo a raccontare di un record dietro l'altro, il blocco, il fermo, lo stop di settimana scorsa, soprattutto per quello che riguarda il settore tecnologico, è stato piuttosto importante. Ma stamattina la borsa europea ci ripensa e abbiamo un rialzo di un punto a Parigi, +1,24% a Francoforte, Londra +1,13%, Milano un pochino più indietro, ma tuttavia guadagna un punto percentuale. Oggi sarà chiusa per il Labor Day Wall Street, ma insomma, Laura Tardino, la settimana, dicevamo, parte bene, quindi è stato uno stop temporaneo, quello di settimana scorsa, fisiologico, oppure l'inizio di un trend, di un movimento di correzione che sarà avrà un carattere un pochino più strutturale, più strutturato? Sì, credo che per il momento il trend che abbiamo visto potrebbe rimanere intatto, anche se nel breve periodo, come insomma abbiamo visto settimana scorsa iniziare appunto dall'America, potrebbe esserci un po' di volatilità. Tra l'altro è vero che oggi l'America è chiusa, però diciamo i future che non dormono mai, effettivamente non si riposano mai, danno già un'indicazione un po' leggermente negativa. È presto per la riapertura di dopodomani, però insomma ci potrebbe essere volatilità, l'abbiamo visto anche stanotte con l'Asia che ha chiuso un po' negativa nonostante i dati macroeconomici positivi provenienti dalla Cina. I dati sulla bilancia commerciale sostanzialmente, sono quei, ricordiamo che surplus commerciale di quasi 59 miliardi di dollari ad agosto per la Cina, quindi riprende bene l'export. Apparentemente sì, calano le importazioni mentre invece aumentano più del previsto le esportazioni, e questo chiaramente ha una lettura da parte teoricamente dei mercati finanziari normalmente positivi. Certo che venendo da rialzi molto significativi, purtroppo può anche accadere che in realtà sulla buona notizia gli investitori momentaneamente vendano. Però dicevo prima, nel medio-lungo periodo, per il momento, poi insomma siamo ad osservare i dati macroeconomici e saranno tanti quelli che verranno pubblicati anche questa settimana, per il momento rimaniamo ancora positivi perché crediamo che insomma il supporto da parte delle banche centrali ci sia ancora. Giovedì peraltro parla anche la BCE. Gli utili e i dati macroeconomici che fin qui sono stati pubblicati e che mi auguro insomma verranno pubblicati nei prossimi giorni dovrebbero confermare un quadro insomma meno peggio di quello che ci si attendeva fino a qualche mese fa, e devo dire la verità che a sostegno forse del fatto che questa correzione potrebbe essere più di breve termine che di lungo termine è anche un po' il comportamento che abbiamo osservato venerdì da parte dei mercati obbligazionari. Per esempio il Treasury, il rendimento del Treasury in realtà, che è il titolo di Stato americano. Esatto, il titolo di Stato appunto americano, in particolar modo sulla scadenza decennale, ha visto il rendimento un po' salire, il che normalmente insomma non accade in realtà se si aspetta un disastro economico maggiore di quello già atteso. Per cui insomma questo fa ben sperare. Ciò detto, siamo sempre molto attenti perché le valutazioni sono molto alte, perché i mercati appunto sono saliti tanto in questi ultimi mesi, e il quadro macroeconomico, anche se meglio delle attese, rimane chiaramente un quadro macroeconomico sufficientemente complesso. Insomma, veniamo fuori, non siamo direi ancora fuori al 100% dalla pandemia, e sappiamo che questo ha avuto sicuramente degli impatti, no, sull'economia globale. Questa riunione della BCE per giovedì prossimo lascia presagire qualche cambiamento, qualche correzione di rotta, oppure si immagina che tutto vada avanti, diciamo così, fino a nuovo ordine o fino a vaccino trovato, insomma, più o meno si continua così? Credo che si continuerà così, non ci aspettiamo grandi comunicazioni. Le attese degli investitori in questo momento sono per un aumento degli stimoli da parte della BCE, in particolar modo del piano di acquisti delle obbligazioni, appunto, da parte della BCE, che non è detto arriveranno necessariamente, dove sono però un'espansione di questo piano entro la fine dell'anno. È chiaro che il tutto dipenderà fortemente dall'evoluzione dei dati macroeconomici. In questa ultima fase abbiamo visto dati marginalmente migliori delle aspettative, però insomma le cose potrebbero chiaramente peggiorare magari nei prossimi mesi, e quindi allora la BCE agirebbe con più fretta, no, nel espandere questo piano, già peraltro dimensionalmente molto rilevante. Bene, grazie a Laura Tardino per essere stata con noi sui temi di Piazza Affari. Vi rimando all'appuntamento con la borsa fra 10 minuti circa. Adesso direi di dare il via al nostro giornale radio del risparmio. Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Sì, anche il tema della nostra prima notizia di stamattina, Mauro, è stato un tema che all'inizio del lockdown, all'inizio della manifestazione di difficoltà per molte famiglie italiane, erano dei temi più gettonati. Non riesco a pagare l'affitto, come faccio, come mi metto d'accordo con il proprietario della casa che occupo, e insomma sono situazioni talmente complesse e difficili che sono finite anche al Tribunale di Venezia. È così, perché come riferisce oggi il Sole 24 Ore, lo sfratto per morosità maturate durante il lockdown, si trattava di morosità maturate su un affitto commerciale, lo vogliamo precisare, questo sfratto non è legittimo, perché non possiamo considerare giustificato, cioè possiamo considerare giustificato il mancato pagamento dei canoni per un negozio che non ha potuto esercitare, non ha potuto lavorare nel periodo appunto più duro della quarantena, quello tra marzo, aprile e gli inizi di maggio. Quindi il Tribunale di Venezia, con un'ordinanza, ha invitato le parti ad accordarsi per i mesi da marzo a maggio su una percentuale di riduzione del canone di affitto, ma non ha ritenuto che la mancata corresponsione degli importi fosse motivo sufficiente per disporre lo sfratto da parte del titolare dell'immobile. A proposito di casa, oggi anche la guida pratica dell'esperto risponde con il Sole 24 Ore, si occupa di casa e soprattutto si occupa di un altro tema che vi piace sempre molto quando lo affrontiamo, la riunione di condominio. Perché se ne parla? Perché dopo lo scoppio della pandemia, come saprete bene, perché magari vi sarà anche capitato di partecipare in questa modalità, si è valutata la possibilità di svolgere le riunioni in modalità telematica. Però, questa è una soluzione non contemplata dalla normativa, dalla legge, e quindi la votazione in streaming per certi provvedimenti rischia anche di risultare illegittima. In ogni caso, per il via libera all'assemblea online occorre il consenso unanime dei condomini proprietari, e quindi in attesa di un intervento di legge che peraltro è richiesto anche con grande forza dalle associazioni professionali degli amministratori, si è cercato di garantire assemblee in presenza nel rispetto della legge, quindi immagino ambienti molto ampi, distanziamento fisico, mascherine, tutte le precauzioni appunto sanitarie necessarie. C'è chi ha deciso di affittare ampi locali, appunto come scrive il Sole, sia all'aperto che al chiuso, che garantiscono il distanziamento sociale ma magari non tanto la privacy dei temi che si devono trattare in assemblea. Però insomma io credo che non ce ne siano state tantissime, che molte siano state rinviate, anche se adesso dovranno naturalmente rimettersi anche, Mauro, alla pari con gli argomenti, perché se vogliono molti condomini approfittare dell'eco bonus e del super bonus del 110%, qua ci sarà adesso anche la gara all'assemblea. I problemi dell'assemblea online sono tanti, il più frequente è la possibilità che cade il collegamento con uno o più condomini, e una volta ottenuto il sì dei partecipanti l'amministratore deve assicurarsi che siano tutti collegati collegati e solo a quel punto si può avviare la registrazione della riunione. È un tema. Trovate tutto sul Sole 24 Ore di oggi, la guida dell'esperto risponde che lo affronta. È vero quello che dicevi, Deborah, adesso c'è che diciamo è pressoché compiuto l'impianto normativo e operativo del bonus del 110%, ci sarà una comprensibile accelerazione per cercare di dar corso appunto nei condomini dove si può al ricorso a questo maxi sconto, questa maxi detrazione promessa dal fisco. Abbiamo due notiziuole sul risparmio, gli investimenti e quant'altro. Quale ti piace di più? Allora, intanto mi piace segnalare che stiamo parlando di due risultati ottenuti su due fronti diversi dalla medesima associazione dei consumatori, che è Confconsumatori. Da una parte c'è una pronuncia che arriva da Massa Carrara, dove un caso è arrivato davanti al giudice di pace di questa città, e poi abbiamo un altro risultato ottenuto invece dalla divisione Parmense di Confconsumatori. Il primo caso riguarda un risparmiatore che nel 2001 aveva acquistato due buoni postali dal valore complessivo di 2.000 euro, senza che però lui lamentava gli venissero fornite le indicazioni obbligatorie, compresa la tipologia dei titoli, le caratteristiche e la data di scadenza. Così al momento della riscossione gli è stato negato quanto lui si aspettava, quanto dovuto e quindi quanto promesso all'atto di sottoscrizione. Il risparmiatore si è rivolto così a Confconsumatori di Massa Carrara, che lo ha assistito in questa complessa mediazione e poi anche nel successivo giudizio davanti al giudice di pace, che ha accolto la richiesta di rimborso integrale. Non è la prima volta che questi buoni fruttiferi allo sportello postale vengano venduti, come cita questo comunicato di Confconsumatori, alla cieca, poi cambiano le condizioni, non sempre il risparmiatore finale viene informato né all'inizio né durante la vita appunto del titolo oggetto dell'investimento, e poi quando si va a riscuotere sono cambiate le condizioni appunto e si rimane un po' con la bocca asciutta, e poi si deve andare all'associazione dei consumatori. E l'altra notizia relativa alle questioni di risparmio riguarda invece un risparmiatore, diciamo, poco prudente, che ha lasciato il bancomat in automobile, però lo aveva lasciato nell'automobile chiusa. Il bancomat non era visibile, era anch'esso non in una immagine, in un cassetto, quindi il furto del bancomat lasciato in auto chiusa e parcheggiata. Questo è il tema. Si è rivolto all'arbitro bancario finanziario perché ovviamente non volevano riconoscergli quanto rubatogli il bancomat gli era stato sottratto appunto con la tessera medesima. L'arbitro bancario finanziario ha detto che effettivamente non è prudente questa condotta, quindi lasciare il bancomat, la tessera bancomat in auto non va bene, è un'imprudenza, però non poteva essere considerata una colpa grave se l'auto è chiusa e la carta è custodita in modo non visibile. Quindi non un comportamento del tutto diligente, ma il risparmiatore ha comunque diritto al rimborso. Consumatore assistito, come ha ricordato già Deborah, da Confconsumatori Parma, la decisione è stata presa dall'arbitro bancario finanziario nella sua sezione di Milano. Lui aveva anche precisato che non aveva mai custodito le carte di debito insieme ai codici PIN, però l'intermediario non voleva riconoscergli il rimborso proprio per il fatto che aveva abbandonato, che aveva lasciato il bancomat altrove. Tra l'altro non è facile fare il pagamento col bancomat, appunto se non hai il PIN. Stavo immaginando che probabilmente era una carta contactless, come si chiama, sono quelle che ti consentono di fare dei pagamenti al di sotto di una certa soglia senza dover digitare il PIN, e quindi immaginiamo anche che sia stato possibile per il ladro utilizzarlo senza problemi per questa ragione, perché altrimenti... Certo, se avesse lasciato i contanti, per dire, sarebbe stato ancora più non semplice. Non dire questa parola, perché lo sai, guarda, cioè, WhatsApp è già in fiamme, io ti dico solo questo. Allora, WhatsApp è 349-238-6666 se volete scriverci con WhatsApp, o anche lo stesso numero per gli SMS, se no 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Parliamo di contanti, pagamento con il contante, qual è la soglia, qual è il diciamo quali sono i limiti, i vincoli che possono intervenire, che possono appunto limitarci nel nostro accesso ai nostri soldi. possiamo liberamente prelevare dai nostri conti correnti, sì o no? Insomma, tutte queste domande che ci affollano la mente, come direbbe il poeta, le affronteremo e sicuramente risponderemo, grazie ai nostri esperti di Valore Mondiale, dopo le borse. Due di denari, una cosa seria, per i vostri soldi, non i nostri. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Dillo a due di denari. Io ho lavorato tanto nella mia vita, lavoro 60 anni, metto via dei soldi e lo Stato me li fa obbligatoriamente mettere via in conto corrente. Io ho diritto che se vado in banca e voglio tirar fuori dalla banca 10.000 euro, non devo render conto a nessuno. Avete capito? Questa è la libertà, prendere i soldi fuori quando voglio, va bene, e di spenderli in cash, va bene, perché questo è un mio diritto e nessuno può togliermelo, neanche una legge fatta dallo Stato. Adesso la regola dello Stato è che puoi prelevare 1.000 euro, non 10.000, non te li danno. Devi compilare un modulo, aspettare, ti danno il via. Dottoressa Rociani, non è vero che non ti dicono niente le banche, io ho preso 3.000 euro, ma ha detto cosa ne facevo. Mi risponde, guarda, qua 10.000 euro non li abbiamo, dobbiamo saperlo 10 giorni prima, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Se uno va in banca e cerca di prelevare 10.000 euro, deve assolutamente dichiarare per quale motivo preleva questi soldi. Ed è una dichiarazione che viene rilasciata al direttore della banca, quindi non siamo liberi di prelevare i nostri soldi in libertà. Mio marito ha dovuto firmare una carta in cui diceva il perché prelevava i soldi e ci servivano per comprare la macchina nuova, e il banchiere non ha voluto saperne niente, ha dovuto firmare e dire e fare la dichiarazione che lui comprava la macchina nuova. 12.000 euro, figuriamoci. Tutte le banche, anche la Posta, fanno una serie di quesiti quando uno deve prelevare una cifra consistente, ti fanno perdere almeno mezz'ora. Dire che siamo stati travolti è poco, e ne abbiamo utilizzati una selezione modesta rispetto a tutti i messaggi che ci sono giunti quando abbiamo, nostro malgrado, lanciato l'argomento. In realtà è stato l'ascoltatore, il primo ascoltatore di questa collezione, appunto, che ha lanciato l'argomento. Noi abbiamo fatto la nostra modesta replica, il nostro modesto commento e via. Sì, perché appunto questo è un tema, per così dire, evergreen, sempre verde qui a Due di Denari, il contante. Tant'è vero che non è la prima volta che abbiamo anche questi due esperti di Valore Mondiale, naturalmente. Allora, in rigoroso ordine alfabetico per cognome, io vado a dare il bentornato a Geronimo Emili, che è presidente di Cashless Way, quindi per il non uso del contante. Buongiorno, bentornato a Due di Denari. Buongiorno a tutti. E a Nicola Forte, esperto del Sole 24 Ore, voce oramai abituale quando affrontiamo questo tema. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, dottor Forte. Grazie, buongiorno a voi. Da dove vogliamo cominciare, Deborah? Allora, vogliamo cominciare intanto proprio dal quesito madre che ha generato tutta questa serie di prese di posizione da parte degli ascoltatori, perché io e te, Mauro, abbiamo detto, non c'è nessuna norma che imponga e che chieda alla banca di chiedere tutte le informazioni che ritiene di dover chiedere a quella persona che va lì e vuole prelevare una cifra più o meno importante, 5-10 mila dal proprio conto corrente. Quindi, e loro, gli ascoltatori, come avete sentito, si sono impermaliti, perché dicono: non è vero quello che state dicendo, perché continuano a fare un sacco di domande. Ma rimane fermo il punto che noi abbiamo indicato, Nicola: non c'è una norma che imponga alla banca di fare tutte queste domande. La banca magari dice: se arrivano 15 persone e tutte vogliono prelevare 15.000 euro perché tutte quel giorno devono comprare l'auto nuova, è chiaro che magari la banca quel giorno non dispone di tutta quella liquidità e quindi fa delle domande. Così banalizzo. Ma allora, c'è un, Allora, non c'è una norma che impone, ma la legge consente alla banca, attribuisce alla banca una discrezionalità nel valutare la posizione di quel soggetto. Mi spiego meglio. Fin quando quel soggetto preleva una somma, anche eccedente il limite attualmente in vigore, 1999,99 euro, immaginiamo 3.000 euro, 4.000 euro, sicuramente non commette una violazione, ma c'è una norma che chiede alla banca di effettuare una segnalazione di operazione sospetta se la banca sospetta che quel soggetto utilizzi quel denaro contante prelevato per un'attività criminosa, per un'attività di riciclaggio. Allora, ci sono degli indicatori, se io effetto costantemente operazioni di prelievo in contante, anche entro quella soglia l'eccessivo uso del contante può indurre la banca a sospettare. Allora la richiesta di informazioni è anche in uno spirito collaborativo, perché se fornisco una motivazione, diciamo, credibile, la banca non fa alcuna segnalazione di operazione sospetta. La segnalazione non è obbligatoria, ripeto, c'è una discrezionalità nel valutare la posizione di quel soggetto. Possiamo forse dire, Nicola, qui Debora, lo so che adesso si offenderanno tutte le persone che lavorano in banca, che magari le prassi bancarie per comodità dicono: se superate la soglia, cioè da 2.000 euro in avanti, voi comunque chiedete informazioni, fate la segnalazione e così ci togliamo dall'imbarazzo, come dire. Sicuramente non sbagliamo, rompiamo un po' le scatole, però non sbagliamo. Eh beh, sicuramente acquisire queste informazioni mette al riparo la banca di aver effettuato un'indagine preventiva e quindi in qualche modo induce la banca stessa a non dover effettuare quella segnalazione. Se io so che quel denaro è servito per quella ragione a chi preleva, tutto sommato, e quindi quella ragione è convincente, ho la tranquillità che non è a mio carico la necessità di fare quella segnalazione. Quindi sicuramente convincente l'indicazione, Mauro. Torno a ricordare ai nostri ascoltatori che possono intervenire in diretta, non fate i timidi, non nascondetevi solamente dietro i WhatsApp audio di WhatsApp al 349-238-6666, se volete chiamateci anche per intervenire in diretta all'800-24-0024. Vedo già un paio di considerazioni interessanti di due ascoltatori e quindi adesso chiedo a Marco Lombardo se ci mette in onda Angelo e Franco, li abbiamo già, guarda un po'. Allora, Angelo dalla provincia di Milano, benvenuto. Buongiorno. Sì, ci dica. Pronto? Sì, la sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere per le spese condominiali se si possono pagare in banca. Tutte le volte ci sono dei problemi. Si possono pagare in banca? Sì. Ma ci mancherebbe. Con contanti. Ah, cioè portando i contanti in banca. Lei riceve un bollettino, immagino. Ricevo il MAV dalla banca. E loro vorrebbero che la transazione fosse tutta sul circuito, insomma, elettronico. Sul circuito, sì. Eh sì, quindi non con il contante. Ma adesso dipende anche quanto spenderà mai per questo condominio, Angelo, santo cielo. La miseria, spenderò 1.000 euro l'anno, 1.300 euro all'anno. In l'anno, certo. Nicola, allora, e qua perché fanno tutti questi capricci in banca? Allora, qui dobbiamo distinguere la posizione. È ovvio che se io sono cliente presso quella banca, quindi qui il problema non si pone perché porto il MAV allo sportello e chiedo l'addebito. Quindi la resistenza può dipendere da questo. Anche viceversa, immaginiamo il caso io mi rechi con quel MAV presso un altro istituto di credito e porto denaro contanti. Vi posso raccontare anche questa mia esperienza personale, l'ho vissuta personalmente. Io ero in vacanza, dovevo andare presso un altro istituto di credito, sono andato con 500 euro in contanti per fare un bonifico portando denaro allo sportello e la banca mi ha chiesto tante informazioni. E se lo fa Nicola Forte è tutto regolare, per carità. Ma la banca non mi conosceva, non ero correntista, non mi aveva identificato, quindi nonostante la somma fosse modesta la banca mi ha chiesto una serie di informazioni perché ha un obbligo di identificare la clientela, capire chi ha di fronte e quindi l'operazione è sicuramente regolare, ma mi aspetto che l'istituto di credito, se non è quello dove ho acceso il conto corrente, mi faccia una serie di domande, ci può stare. Sentiamo Franco che invece ha una domanda che così facciamo arrabbiare i bancari. Io qua mi faccio il segno della croce adesso sull'argomento che introduce Franco, dopo che mi sono riappacificata con tutti i tassisti di Roma che mi hanno fatto pagare con la carta chiedendomelo loro, adesso Franco mi fa litigare di nuovo con la categoria. Franco buongiorno. Ah, buongiorno. Lei ha una responsabilità grossa, ci chieda. Una responsabilità. Allora, siccome per bere un caffè al bar ti danno lo scontrino fiscale, invece so che i tassisti da sempre, oramai non solo in Italia ma anche all'estero, non ti danno mai né lo scontrino fiscale e non vogliono nemmeno il pagamento con le carte. Mm. E la Guardia di Finanza, tutti hanno provato a combattere questa cattiva abitudine, ma nessuno ci è riuscito. Ci ha provato Pilitteri, Lamoratti, Bersani, e la Guardia di Finanza. I tassisti irriducibili resistono. Franco, la salutiamo, abbiamo capito l'argomento. In realtà qualche cambiamento c'è stato negli ultimi tempi. La platea dei tassisti più disponibili ad essere pagati con lo strumento elettronico si è ampliata e cresciuta. Ci sono ancora delle sacche di resistenza. Adesso io vorrei anche salutare con affetto tutti i tassisti che non hanno lavorato un bel niente in tutti questi mesi con il lockdown, perché i trasporti si sono letteralmente bloccati. Quindi magari con affetto salutiamoli anche in questo senso. Effettivamente è vero, adesso ci sono anche delle app che consentono addirittura una sorta di pagamento senza neanche trasferimento di contanti. Esatto. E quant'altro. Il migliore dei mondi possibili per Geronimo Emili. Geronimo, ben trovato, eccoci di nuovo a lei. Eccoci. Allora, cashless. Mi davi del tu una volta. Sì, vabbè, in diretta sono sempre un po' indecisa se fare l'amicona degli ospiti, perché magari lo riteniamo non tanto professionale. Volentieri, no, grazie vabbè. Geronimo. Allora, Cashless Way è un'associazione per la promozione degli strumenti digitali di pagamento e negli anni passati, quest'anno immaginiamo che non sia stato fatto, ha organizzato i cosiddetti no cash trip, dei viaggi organizzati per verificare quanto fosse possibile pagare tutto quello che era necessario, sì, sostenere appunto per questo trip, per questo viaggio, senza contanti, ma addirittura non tanto senza contanti, addirittura a volte anche senza carta prepagata. Volevate, forse nell'ultimo viaggio è successo, utilizzare, sì, solo lo smartphone. Nell'ultimo viaggio abbiamo proprio eliminato completamente anche il supporto, la cosiddetta plastica, no? E quindi abbiamo verificato se fosse possibile poter utilizzare il telefono con la tecnologia contactless, e l'abbiamo fatto in Italia, perché poi in realtà il viaggio, che è stato anche molto bello in Europa, che era la penultima edizione, è stato anche, come dire, adesso lo posso dire, facile, perché andare a pagare con carte di pagamento in giro per l'Europa, in Germania, in Svezia, in Danimarca, in Olanda, cioè in Inghilterra, non è stato assolutamente complicato, anzi abbiamo visto delle cose anche divertenti, come per esempio dei homeless che avevano nelle loro borsette le carte di credito, ripeto, di credito, non debito, non prepagate, proprio quelle con i numeri a rilievo, quelle che a noi danno un po' con un po' più di difficoltà, solo magari se abbiamo una busta paga o una disponibilità bancaria superiore magari, non so, a 5.000 euro. E in Italia, quando l'ultima edizione, quando l'abbiamo fatta con rimanendo nel territorio nazionale soltanto con il telefono, è stato più di 2 anni fa, non è stato del tutto semplice. Adesso è più facile, è vero, adesso l'accettazione è aumentata, le persone hanno cominciato a utilizzare il contactless molto più frequentemente, è più facile trovare post abilitati, tecnologicamente abilitati. Però rimane ancora questa enorme bacino di persone che abbiamo ascoltato insieme nei messaggi all'inizio poco fa, che vogliono continuare a usare contanti. E io mi continuo a chiedere perché. Aspetta lì, ce lo chiediamo? Ce lo chiediamo dopo il traffico. Ogni venerdì a 2 di denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che scriverci a 2didenari@radio24.it. La finanza è poesia. due di denari. Go to a cash machine to get a ticket home. A message on the screen says don't make plans, you're broke. Hanno pensato che per pagare con il bancomat o quello che è una carta di credito si fa un codice, no? Ma se uno è ipovedente come me, mi dite come si fa? Visto che io poi sono anche sola, bisogna mettere una soglia che sia, come dire, decente, perché altrimenti, cioè, diventa veramente impossibile anche andare a farsi la spesa. Allora, prima ci lamentiamo perché c'è l'evasione. Allora io dico che posso pagare con l'assegno, con la carta di credito, con il bancomat, e quindi non capisco perché la gente vuole per forza pagare in contanti. Allora è chiaro che viene il sospetto, che tu vuoi pagare così a Va bene, va, arrivederci, buongiorno. Beh, io segnalo il classico dei classici, Mauro, la fila in autostrada al casello autostradale di Ferragosto pur di non pagare, non dico con, mi tocca dirlo, farò pubblicità col telepass, ma neanche con la carta di credito, si fanno delle code chilometriche che durano delle ore pur di non utilizzare appunto lo strumento elettronico. Ma lì magari c'è anche la privacy, perché poi quando arrivi sul posto metti su Facebook tutto quanto, però non ti va di far sapere che sei uscito al tal casello. Esatto, che sei andato in vacanza a Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza. E tutti un pochino di queste difformità. Stavamo ascoltando le Geronimo. Difficoltà invece di Geronimo Emili di Cashless Way per, diciamo, estendere, riprendi un po' anche quanto ha dichiarato la nostra ascoltatrice nell'ultimo messaggio, no Emili? A riferimento alla... Sì, al fatto che insomma sembra che ci sia un po' di, così, di furbizia nel non voler ricorrere agli strumenti tracciabili, perché il contante, si sa, è legato all'economia informale, come la chiama Deborah qualche volta. Non so io. Che bel termine, sì, informale, che poi tra l'altro noi siamo i primi in Europa a essere informali, ecco, c'è anche da dire questo, però io vorrei dire una cosa. Se non ricordo male, il 64 poco più poco meno per cento degli italiani contribuenti sono dipendenti, quindi non hanno possibilità di evadere. Perché allora la restante parte è così forte? Perché questi 64% di italiani non, come dire, non fanno la voce un po' più grossa e dicono: ma noi che ci frega di usare i contanti, tanto non possiamo evadere, abbiamo una busta paga, riceviamo uno stipendio direttamente bonificato sul nostro conto, tutto questo ritirare soldi per noi è solo una rottura di scatole. Non è che abbiamo un paese che è fatto all'80% di commercianti o di persone che comunque possono fare i furbi. C'è anche da dire questo. Io tra l'altro continuo a non capire perché le persone vogliono continuare a utilizzare i contanti. Esistono degli interessi, per carità, esiste una contrapposizione atavica tra l'interesse individuale e l'interesse collettivo. Sì, no, più che altro diciamo che l'origine di questa trasmissione è stata un'altra, quella di dover dare tutte le giustificazioni che è necessario dare quando si vuole fare magari un prelievo importante in banca o quando si vuole fare un deposito importante, la banca ti chiede vuole sapere tutto, da dove arrivano questi soldi o a che cosa ti servano nel caso in cui tu debba prelevarli. Quindi, diciamo... ma la banca ti chiede anche come mai hai fatto un versamento, come mai ti è arrivato un bonifico di 50.000 euro. Io ho avuto un'esperienza personale recente, abbiamo venduto una casa io e mia sorella vive in Germania, io vivo in Italia, a lei in Germania, paese dove tra l'altro l'attenzione alla privacy è ancora più alta rispetto a quella italiana, perché i tedeschi non amano assolutamente le carte di credito come gli italiani, però là dopo una settimana la banca ha detto: senti, scusami, ma questi soldi tu come li hai ricevuti? Facci capire. Lei ovviamente ha dimostrato che c'è un atto di vendita, un'eredità, e quindi tutto è finito lì. Io sto ancora aspettando questo controllo che arriverà, quindi voglio dire, ma magari anche no. Cioè, magari anche no, infatti, ma i controlli avvengono anche quando c'è un flusso di denaro dove il contante non lo puoi proprio toccare. Perché quella persona deve andare a pagare una macchina a 12.000 euro in contanti? Cioè, non è più comodo fare un bonifico? Lo so. Perché magari quei 12.000 in contanti sono diventati 12.000 di una macchina che prima era 15.000, adesso io faccio sempre qua ecco, Mauro c'ha la gastrite. Cose sempre mi turbano. Sì, no. Sentiamo una voce femminile, Laura, dalla provincia di Verona, che ha un'esperienza un po' diversa da quelle raccolte. Però precedenza. Dobbiamo fare in tempo anche a sentire Giuseppe, perché sì, questa mi piace tantissimo. Sicuramente. Laura, buongiorno. Buongiorno, io parlo proprio da Verona, non dalla provincia, visto che siamo così, teniamo tutti i nostri territori, anch'io. Volevo dire che io non ho avuto alcuna difficoltà quando ho fatto emettere da mia figlia, cointestataria del mio conto, un assegno da 10.000 euro per l'acquisto di una macchina. Ho avvertito la banca solamente perché non sapevo se lei, che non aveva mai emesso un assegno sul mio conto, era autorizzata a farlo. La banca ha detto sì sì, non c'è stato alcun problema. No, però lei ha detto una cosa importante, Laura, ho avvertito la banca, non si è presentata lì allo sportello con il dire mi servono questi soldi e non voleva dare giustificazioni, lei l'ha avvisati, quindi in realtà questo passaggio del quale parliamo questa mattina di comunicazione, Mauro, no, c'è stato. Sì, quindi poi probabilmente immagino fosse un assegno circolare. Ho trovato una cosa semplicissima, voglio dire, perché il direttore della banca mi ha detto guardi non c'è problema perché poi l'assegno non va intestato alla concessionaria, più rintracciabile di così. Certo. Avendo pagato la concessionaria è chiaro che no, Laura, però giustamente le dice aveva avvisato, insomma la banca era informata del fatto che stesse arrivando questa piccola operazione straordinaria di movimentazione su questo conto. No, Giuseppe da Roma, voglio sentirlo perché questa è veramente Ma troppo guarda, divertente. Lo so, lo capisco. Giuseppe, buongiorno. Allora, ci racconti? Buongiorno. Velocissimo che siamo in chiusura, Giuseppe, grazie. Allora, è un mese che non riesco a cambiare una banconota da 500 euro. Oh, mannaggia. Vado alla posta per pagare dei bollettini e mi dicono no, è un po' rovinata la banconota, non è falsa, è vera, è giusta, però è leggermente rovinata, noi non la possiamo accettare, la deve versare come sono in banca. Schizzinosi. Mio figlio, siccome io non stavo a Roma in quel periodo, c'ha la banca sempre, la mia filiale però vicino a casa sua, do la banconota a lui, va là e gli dicono, dice no, se non entra nel bancomat noi non la possiamo prendere. Ora io mi trovo davanti alla mia banca in questo momento. No, tra l'altro lei, scusi, come l'ha presa questa banconota? Mi scusi se mi faccio gli affari suoi. Per lavoro, da una fattura ho preso questa banconota. È un incubo. E adesso non riesco. Adesso sto entrando in banca mia, in questo momento, Banca Intesa di Roma. Adesso voglio vedere se qui c'ho anche degli assegni da versare, voglio vedere. Domani allora Giuseppe, guardi, noi stiamo chiudendo, adesso sentiamo un commento, domattina ci chiami e ce lo racconti com'è finita. Mi raccomando, abbiamo appuntamento con lei alle 11.05. Noi restiamo qua in sospeso perché altrimenti ce l'andiamo a mangiare. Andiamo a fare una bella cena in un ristorante stellato. Ci portiamo Nicola Forte, Geronimo Emili, caro Mauro, che ne pensi? Sì, sicuramente. Ma se no ci scriva anche @radio24.it. Nicola Forte, l'ultimissima battuta in 30 secondi. Ma la banconota rovinata, sciupata, possono davvero fare tutte queste eccezioni allo sportello? Bisogna vedere fino a che punto normalmente gli istituti di crediti e di credito l'accettano. Io penso più che altro che il problema sia derivi dal fatto, sì, esattamente, perché le banconote di 500 euro, se non ricordo male, non si stampano più, quindi possono essere utilizzate fino all'esaurimento, quindi probabilmente la banca chiede il versamento sul conto corrente per poi utilizzare. Anche qui c'è un discorso legato al riciclaggio, quindi penso che la preoccupazione sia quella, non tanto che la banconota è rovinata. Ma io tra l'altro, visto che non si possono stampare più, appartengono all'era di Mario Draghi, io me la terrei che magari fra qualche anno, chissà, che non sia un pezzo da repertorio, di archivio, di collezionismo interessante. Beh, insomma, però 500 euro, non lo so, lanceremo un sondaggio tra gli ascoltatori, torniamo sicuramente domani, grazie a tutti. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.